Questo è un audiolibro realizzato per il progetto LibriVox. Libera i libri con la tua voce. Questo audiolibro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo. Audiolibro registrato da Marzia, marzia@cumaves.it. Che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca. Capitolo ottavo. E qui cade in taglio di parlare della cosiddetta mafia in guanti gialli, della protezione che individui delle classi superiori, qualche volta investiti del mandato politico, e che le stesse autorità governative accordano alle cosche di mafia. Questa protezione, anzitutto, ha tradizioni antiche. In Sicilia certe condizioni della società, che dovevano essere generali in tutta l'Italia ed anche fuori d'Italia fino a due secoli fa, si prolungarono, poco attenuandosi per tutto il secolo XVIII ed oltre alla metà del XIX. Sino al 1860 i signori siciliani, i nobili, non disdegnavano di intercedere presso l'autorità affinché fossero risparmiati i rigori polizieschi a quei facinorosi che abitavano presso le loro proprietà rurali. Naturalmente garantivano che i presunti rei non avrebbero più fallato e veramente questi o se ne stavano davvero quieti o usavano maggior cautela nel delinquere. In ricambio di questa specie di garanzia morale che il signore prestava a pro dei facinorosi, egli veniva sempre rispettato. E la cosca del luogo non solo non l'offendeva, ma impediva che altri lo offendesse ed esercitava a suo pro una specie di polizia preventiva, forse più efficace di quella legale. Un po' per comodità, un po' per vanità, un po' per un avanzo di spirito di mafia, i nobili siciliani si compiacevano di venire così rispettati, anzi, con loro intimi se ne vantavano. Ma questa tradizione si sarebbe dileguata nei 40 anni di vita italiana che la Sicilia ha vissuto, se le autorità italiane preposte alla pubblica sicurezza dell'isola non avessero, almeno saltuariamente, mantenuto un'altra tradizione che pure rimonta all'epoca borbonica, cioè il sistema delle transazioni e dei compromessi che le autorità facevano direttamente coi facinorosi. Inoltre, alla protezione del signore a pro del plebeo di malaffare, si è ora aggiunta e sostituita quella stai più efficace del deputato, del sindaco, dell'assessore a pro del grande elettore mafioso, addirittura membro influente di una cosca. La polizia borbonica soleva con poca fatica mantenere una sicurezza pubblica molto relativa, promettendo l'oblio del passato alle associazioni dei pregiudicati, accordando anche una certa tolleranza per il presente, purché nel territorio dove si svolgeva la loro attività non accadessero reati gravi di quelli che commuovono la pubblica opinione. Qualche volta si arrivava a concedere a un certo numero di malfattori apparentemente convertiti una specie di autorità legale, che essi avrebbero dovuto usare a custodia della vita e delle sostanze degli onesti. Ora, questi simili espedienti coi quali si manteneva l'ordine per mezzo del disordine sono stati e sono di quando in quando imitati dalla polizia e dai prefetti italiani. E non occorre di dimostrare che sono rimedi che procacciano al malato qualche momento di precario, di incompleto ristoro, prolungando d'altra parte definitivamente la malattia. Pochi anni dopo che fu introdotto in Sicilia il regime rappresentativo, le cosche mafiose compresero subito il gran partito che potevano trarre dalla loro partecipazione alle elezioni politiche ed amministrative. Questa partecipazione diventò più efficace ed attiva dopo le leggi che allargarono il suffragio e che diedero il diritto di voto ai membri stessi delle cosche e alle classi nella quale di questi possono avere più influenza e godono maggior prestigio. Già il sistema rappresentativo, benemerito per altri rapporti, sotto colore di attuare un governo di maggioranza, dappertutto dà una prevalenza alle minoranze organizzate. Or si comprende agevolmente che nei paesi dove erano già organizzate le minoranze composte da coloro che usano rasentare il delitto, e qualche volta delinquono addirittura, questi abbiano acquistato un'importanza elettorale assai superiore alla loro forza numerica. E poiché i candidati badano più generalmente alla forza elettorale anziché alla moralità dei loro aderenti, gli aspiranti alle cariche amministrative locali ed anche alla deputazione politica, e qualche volta anche quelli che si presentano con programma di opposizione al governo, si sono resi spesso intermediari fra la polizia e malfattori. sollecitando pro di questi la concessione del porto d'armi, il proscioglimento della munizione, il ritorno del domicilio coatto, spendendo qualche volta una buona parola con i magistrati durante il periodo istruttorio dei processi penali, perfino brigando presso i giurati che, valga a loro lode, si sono mostrati abbastanza restii a lasciarsi corrompere. Le autorità governative, visto fare il gioco dai candidati che sostenevano e combattevano, lo hanno fatto per conto loro ed hanno trattato direttamente con le cosche e coi facinorosi in genere perché dessero i voti di cui disponevano al tale anziché a tal altro. Ed è così che si è creato, continuato, rinforzato quel sistema di compromessi fra cattivi soggetti, persone autorevoli e funzionari governativi che è ora la fonte principale del malessere morale che attrista e addugge la Sicilia.